Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi vi parlerò di un uomo che ha vissuto due vite. E voi starete pensando, beh, dice quasi sempre così. No, questa volta parliamo di due vite separate da una precisa linea di demarcazione, anche tragica. La prima vita è quella di un bel ragazzo che diventa celebre impersonando Superman al cinema, un'immagine globale che dà di sé, quella di un uomo affascinante, atletico, una vita che inizia nel 1952 e finisce il 27 maggio 1995. E poi c'è un'altra vita, iniziata il 1 giugno del 95, la vita di un uomo paralizzato costretto su una sedia a rotelle, una vita che finirà nel 2004. Sto parlando di Christopher Reeve, che il destino ha voluto prima supereroe sul grande schermo e poi supereroe, uomo, guerriero nella vita reale, pronto a combattere in prima persona per la sua battaglia personale, ma soprattutto per raccogliere fondi in favore della ricerca. Nel 2001 non avevo nessuna difficoltà a dire a chiunque che si deve credere al proprio valore in quanto persona. Ma il 1 giugno del 1995, nell'unità di terapia intensiva presso la clinica della University of Virginia, non avevo quella convinzione, per niente. Quel giorno riacquistai conoscenza e scoprii che mi trovavo disteso in trazione con una pesante palla di metallo sospesa dietro alla testa e attaccata ad una struttura metallica fissata alle tempie per mezzo di viti. Seppi che, a causa di una caduta da cavallo durante una gara, mi ero rotto il collo pochi centimetri al di sotto del tronco encefalico e che le probabilità di sopravvivere all'intervento chirurgico per riattaccare la testa alla colonna vertebrale erano, nel migliore dei casi, 50 su 100. Questo è il terribile incipit dell'autobiografia di Christopher Reeve. È preciso, senza parole melodrammatiche, sta raccontando il suo risveglio dall'incidente che gli ha paralizzato il corpo dalla testa in giù. E oggi voglio partire da qui, dal punto di svolta, dalla caduta che lo ha visto poi risalire. La nostra storia comincia proprio quel giorno. La caduta, come abbiamo potuto ascoltare, coincide proprio con una caduta da cavallo. Dobbiamo fare un altro piccolo passo indietro agli anni 80, perché Christopher non è mai stato su un cavallo, è un attore molto affermato. A 26 anni ha messo i panni di Clark Kent alias Superman. La sua interpretazione dell'eroe dei fumetti lo fa diventare una celebrità. Il primo film è del 78 e nel corso degli anni 80 girerà anche i sequel del film. E per vestire i panni di Superman deve idealmente imparare a volare, ma per recitare nel film drammatico Anna Karenina dell'85 e accanto a Catherine Blissett deve invece imparare a cavalcare sul serio. One of the greatest love stories ever told explodes on film with all the romance, the spectacle, the power, the passion. Anna Karenina. She was an extraordinary beauty. Il destino prova a metterlo in guardia perché lui si scopre allergico ai cavalli, però lui entra nella parte, vuole fare le scene lui, si cura, prende antistaminici e sul set di Anna Karenina si innamora del mondo dell'equitazione. Comincia a cavalcare con costanza, va a Martha Vineyard, che è un'isoletta molto esclusiva, amata dalle celebrità. Siamo vicino alla costa meridionale di Cape Cod in Massachusetts. Intanto si innamora di Dana Morosini, un'attrice esordiente che ha 10 anni in meno di lui, e la sposa nel 92. Acquista un cavallo, un puro sangue di 12 anni, e con lui si prepara a partecipare a qualche competizione sportiva. Il suo allenatore lo invita a partecipare al Commonwealth Dressage a Culpeper in Virginia. Christopher ci va volentieri, finisce al 4º posto su 27 nel dressage. Poi c'è il cross country. Il cross country è una corsa campestre con ostacoli. Ci sono 2 passaggi difficili, salti 16 e 17, e invece il terzo sembrerebbe un salto molto agevole per il suo cavallo, ma il suo cavallo si rifiuta di avanzare. Suddenly, Johnny gets a feeling he's been surrounded by horses. Nose in flames. He saw horses, horses. il 27 maggio 1995. Il cavallo al terzo ostacolo si ferma e Reeve cade in avanti, si aggrappa alle redini, non si capisce come le sue mani si attorcigliano attorno alle redini, lui atterra malamente sul lato opposto dell'ostacolo. È un incidente apparentemente banale, ma purtroppo è l'incidente che cambia la sua vita. Lui si spezza la prima e la seconda vertebra, non respira. Arrivano i paramedici, riescono a riattivargli la respirazione, lo trasportano in un ospedale lì vicino e poi in elicottero alla University of Virginia Medical Center. It's a sport requiring skill, practice. L'equitazione è uno sport che richiede capacità, pratica, fegato e fortuna. Durante lo show che si è tenuto in Pennsylvania ieri sera, una competizione Grand Prix a cui hanno partecipato alcuni dei più famosi scrittori americani, ci sono state molte preghiere per la sorte di Christopher Reeve e sembra che alcune di queste siano state ascoltate. Il dottor John Jane ha infatti dichiarato che Reeve dovrà sottoporsi ad una operazione per fondere due vertebre. Reeve era un cavallerizzo amatoriale, ma i professionisti ci hanno spiegato che ogni gara presenta dei rischi. E lui non si ricorderà nulla dell'accaduto, ma la frattura delle vertebre e la lesione del midollo spinale comporteranno una paralisi permanente definitiva, paralisi dal collo in giù, perdita dell'uso di tutti gli arti e perdita anche della capacità di respirare autonomamente. Da allora fino al giorno della sua morte, Christopher Reeve rimarrà costretto su una sedia a rotelle collegato a un respiratore artificiale. Il falco e il gabbiano. I primi giorni dopo l'incidente sono durissimi. Christopher Reeve si risveglia a intermittenza, in preda a una sorta di delirio. Poi riprende la coscienza e deve fare i conti con la sua dura nuova realtà. Il cranio è scollegato dalle vertebre. Ha una possibilità su due di sopravvivere all'intervento, che deve fare per forza perché deve ancora riattaccarlo il cranio alla spina dorsale. E lui dice alla moglie che forse è il caso di lasciarlo andare e pensa seriamente al suicidio, e lei con le lacrime agli occhi gli risponde che accetterà le sue decisioni. Siamo al primo giugno del 1995, lui passa le notti con l'angoscia dell'intervento, il buio diventa un terribile compagno, tutto sembra configurare la fine della sua storia e della sua vita. Poi un pomeriggio si apre la porta della sua stanza, un medico tozzo con un camice macchiato gli si avvicina con un accento russo, gli dice: sono un proctologo, devo farti un esame rettale. Non è un medico, è Robin Williams, che mette i panni di un personaggio da lui interpretato in un film, un dottore russo che non conosce bene la lingua, che fa danni in continuazione e anche poco prima del parto della protagonista. Il film è 9 mesi. Controlla contrattazioni, ecco io la spalpa. Buongiorno, sono il dottor Newsom, ecco. Devo somministrare l'epidurale. Ah, sì. Vuole dire che infilerà quel cosone a mia moglie? Dritto nella spina dorsale. Oh, lei è come palla di bowling. Lei è ancora contrattazioni? Dove che tu va? Ecco, visto, per questo donne fa figli, perché uomini non riesce di sopportare il dolore. Ehi, ragazzi! Infermiera, prenda dei sali e rimetta in piedi questi maschietti. Insomma, pensate, Robin Williams, che tanti anni dopo finirà proprio in preda alla depressione, e in quel momento va a far ridere il suo amico Christopher, e per la prima volta dopo il risveglio Christopher Reeve effettivamente ride e si diverte. He was the first one to show up down in Virginia when I was really in trouble. È stato il primo a presentarsi in Virginia quando stavo molto male. È arrivato un pomeriggio e grazie a Dio avevo una cintura di sicurezza sulla sedia a rotelle, perché sarei caduto da ridere. Nel bel mezzo di una tragedia come questa si può comunque provare gioia e ridere e amare. Chiunque dica che non vale la pena vivere ha assolutamente torto. Anybody says life's not worth living is totally wrong, totally wrong. E Reeve riconquista per un attimo il suo sorriso, la famiglia è al suo fianco, ci sono gli amici, insomma si sottopone all'intervento delicatissimo, quello che attraverso un perno delle lamine deve fissare di nuovo il cranio alla colonna vertebrale. Riesce questa operazione. Il 28 giugno arriva e pronto per cominciare un percorso che ovviamente è tutto in salita, quello della riabilitazione. Va in un centro specializzato in New Jersey e c'è a sostenerlo il suo amico Robin Williams. In tutto ciò che ha fatto ci ha sempre messo tutto se stesso e anche ora è sempre lo stesso uomo. Surely I could tell when I sleep tonight a dream will call and raise its head in majesty, dividing all my energy to the meeting of your love, where from whence it came, like a singer searching for a song, I try to reach where you belong, as I will be the song for you, I will be your servant child. No, oh no, I cannot be deceived. No, oh no, there's something that I feel, something that I feel inside. Surely I could tell if you asked me, Lord, to board the train. My life, my love would be the same. Yes, I will be the one for you in the meeting of your love. Tra i tanti infermieri che aiutano Christopher Reeve c'è anche un giamaicano, si chiama Glenn Miller. Riesce a fargli imparare a usare i comandi della carrozzina motorizzata attraverso un soffio all'interno di una cannuccia in bocca, è l'unica cosa che lui può fare. Riesce anche a fare recuperare alcune attività a Christopher, tra queste c'è anche il cinema. I due amici guardano assieme il film Cool Runnings, è una commedia ispirata alla storia della squadra nazionale giamaicana di Bob che aveva debuttato alle Olimpiadi in Canada. Insomma, il suo assistente giamaicano con un team di professionisti riesce a fargli tornare la voglia di vivere. Le cure naturalmente costano moltissimo e quando la sua famiglia è sull'orlo della bancarotta, molti attori hollywoodiani, tra tutti naturalmente in prima fila c'è Robin Williams, decidono di autotassarsi per aiutare il collega e attraverso un rigoroso, faticoso programma di riabilitazione arrivano molti miglioramenti, ma soprattutto il miglioramento da fare è quello mentale. Christopher deve accettare la carrozzina e la sua condizione e ce la fa, ne parla anche in diverse trasmissioni, anche in una per bambini. In studio oltre a lui è presente un grande pupazzo che lo intervista. Ehi Chris, non ti vedevo da tanto tempo, ma sembri diverso dall'ultima volta che ci siamo incontrati. Ah, ecco perché. Non usavi quella sedia a rotelle l'altra volta? Sì, ecco, vedi, ho avuto un incidente e ora non posso camminare, quindi uso questa sedia a rotelle per muovermi. Oh, e usi le braccia per spingerti? Beh, alcune persone usano le braccia per spingersi sulla sedia a rotelle. Ma del mio incidente non posso più muovere nemmeno le braccia, ma va bene così. Ma se non puoi usare le braccia per spingerti, come fai a muoverti? Vedi questa cosa vicino al mio mento? Faccio così, guarda. Oh, guarda! Wow! La sedia si muove! Ma mi sembra che l'altra volta non avessi nemmeno quel tubo. Sì, è vero, ma dall'incidente mi serve questo tubo per poter respirare. I'm sorry you had an accident. Oh, mi dispiace che tu abbia avuto un incidente. Non ti preoccupare, ci sono delle cose che non posso fare, ma con la mia sedia, la mia famiglia e tutti i miei amici posso fare un sacco di cose bellissime. All my friends who help me, I can do lots and lots of great stuff. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando due vite separate da un incidente terribile che trasformano il protagonista della prima vita, un eroe del cinema, anzi del cinema di azione, l'eroe che ha recitato Superman, che ha fatto il ruolo di Superman, e la seconda parte, la vita di una persona costretta a una sedia a rotelle senza poter muovere nulla e senza poter respirare autonomamente. Stiamo parlando di Christopher Reeve. Steve, che a questo punto è un supereroe anche se per motivi diversi nella sua seconda vita. Decide di scendere in campo in prima persona, di discutere della sorte riservata alle vittime di incidenti, di denunciare il sistema sanitario americano, uno dei peggiori del mondo. È un sistema totalmente avaro d'aiuti, soprattutto nei confronti di chi non è benestante. Nel marzo del 96, durante la cerimonia degli Oscar, Christopher Reeve si presenta sul palco davanti a tutta la platea. Ora riesce a parlare meglio nel silenzio generale. What you probably don't know, probabilmente voi non sapete, is that I left New York last September, che sono partito da New York lo scorso settembre, and I just arrived here this morning, e sono arrivato qui solo stamattina. And I'm glad I did. Sono felice di averlo fatto, perché non mi sarei perso questo benvenuto per nulla al mondo. Grazie. Thank you. Così, davanti a tutti i suoi colleghi, davanti al mondo dell'industria cinematografica, Christopher si arma di ironia, ma chiede tempo e chiede fatica per prestare maggiore attenzione ai problemi sociali che sta vivendo l'America, e rimane sempre più coinvolto in campagne a sostegno dei bambini portatori di handicap, paraplegici. Fonda la Reeve Paralysis Foundation Christopher nel 1998. Lui è convinto che l'impiego terapeutico delle cellule staminali potrebbe restituire a molte persone la speranza di camminare, che poi è il suo grande sogno. Testimonia di fronte a una sottocommissione del Senato a favore di finanziamenti federali per la ricerca sulle cellule staminali. Davanti agli esperti pone una questione di morale pubblica. Pone il dubbio: è più morale utilizzare embrioni che altrimenti sarebbero scartati dalle cliniche della fertilità, o è più morale non utilizzarli nella ricerca scientifica che potrebbe aiutare e cambiare la vita di milioni di pazienti? È bella domanda questa. Certe cliniche sono esistite in relativa pace per quasi 40 anni. E non capisco perché tutto ad un tratto c'è un enorme problema a questo proposito. Ora che gli embrioni scartati verranno utilizzati per la ricerca invece di essere gettati nella spazzatura. Mentre prolunghiamo questo dibattito sulle cellule staminali, milioni di persone continuano a soffrire. È il momento di sfruttare il potere del governo e andare avanti. Arriva intanto, continua a lavorare, viene salvato dal lavoro, dirige dei film per la televisione sui temi a lui cari, tra cui la storia di Brooke Ellison, una storia vera di una coraggiosa ragazza che si era laureata a Harvard benché paralizzata dal collo in giù. Poi recita nel remake del capolavoro di Hitchcock, La finestra sul cortile del 98, è diretto dal regista Jeff Blackner, accanto a Daryl Hannah, lui è uno dei protagonisti. After a tragic accident, Jason Kent is coming home. I know you'll make something good out of all this. You always do. To his new life. Hi, Claudia Henderson. e tra documentari, interviste, campagne per la raccolta fondi riesce anche a scrivere due autobiografie dove il pubblico scopre gli anni della sua giovinezza. Eh sì, perché Christopher Reeve scopre il suo talento quasi per caso a 9 anni. Gli chiedono a scuola chi voglia partecipare a un'opera teatrale amatoriale, lui alza la mano, viene scelto e da quel momento scopre di avere un innato talento per la recitazione. È bello, è atletico, dimostra un po' più della sua età, a 15 anni inizia a lavorare saltuariamente in teatro, non smette di studiare, tanto che quando riceve una lettera da un agente che aveva scoperto attori del calibro di Redford, Michael Douglas e Susan Sarandon, non abbandona gli studi, ma cerca di far coincidere i provini a New York con l'università. E poi aumenta il lavoro, si susseguono i contratti con diversi teatri. Alla fine Christopher capisce che la sua strada è quella della recitazione. Siamo nel 73, 2000 studenti sono pronti a sostenere un provino per 20 posti alla Juilliard di New York, una delle più famose scuole al mondo di arti, musica e spettacolo. E tra di loro, tra questi 2000, ci sono i due amici, Christopher Reeve e Robin Williams. Da quel momento non si allontaneranno più l'uno dall'altro, saranno selezionati per un programma di studi avanzato. Christopher studia molto, si applica, fa provini. Un giorno Katharine Hepburn lo sceglie per interpretare il suo nipote in un film per la CBS. La differenza è molta, ma i due diventano amici, anzi c'è chi dice che ci sia anche del tenero, ma quello che si sa è che Reeve prosegue nella sua carriera, inizia a avere piccole parti in film prodotti a Hollywood fino a quando non arriva la sua vera occasione, la celebrità planetaria. Arriva con il ruolo di Superman, l'uomo d'acciaio. Sono 200 gli aspiranti Clark Kent, il direttore del casting crede che serva un attore poco conosciuto, insiste con il regista per far fare un provino anche a lui. Siamo nel 77. Christopher è un bell'uomo, bei lineamenti, occhi azzurri, 193 centimetri, è un po' troppo esile, ma quando interpreta la parte al provino convince tutti. Il regista lo vuole muscoloso, lui non vuole mettersi una tuta in gomma piuma, si mette al lavoro, inizia a allenarsi mattino e pomeriggio, mangia di più, avrà 14 kg in più di massa muscolare, insomma è pronto per Superman. Slane, ti presento Clark Kent. Piacere, Miss Slane. Aspetta, no! Scusa. Clark, al tuo paese sono tutti come te? No, veramente no. Ma chi diavolo è quello? Niente paura, la reggo io. Lei mi regge? E chi è che regge lei? Ma deve credermi, le giuro che volava. Questa è la storia del secolo. Da dove proviene? Da un pianeta di nome Krypton. Per chiunque provenga dal pianeta Krypton, questa sostanza è letale. Un momento, signor Luton. Vuol dire che fuoco e proiettili non gli fanno niente e questa roba qui potrebbe ucciderlo. Potrebbe ucciderlo. Oh, mamma! Sì. Il film è un successo planetario e in quegli anni lui ha due figli della sua prima compagna, la modella Gay Exton, mantiene una sua notorietà continuando a interpretare altri ruoli in altri film, ma soprattutto il Clark Kent imbranato che si mette nella cabina del telefono, si cambia, diventa Superman, e Superman 2 nell'80, poi Superman 3 nell'83 e Superman 4 nell'87. E dopo il grave incidente del 95, lui non abbandona il suo personaggio. Nel 2003 viene invitato a partecipare come guest star alla serie televisiva Smallville, che racconta proprio l'adolescenza di Clark Kent, alias Superman. E in una puntata molto speciale appare proprio Christopher Reeve nei panni di uno scienziato, amico del giovane Clark Kent. Sentiamolo. Clark Kent e Superman erano frutto della mente di Jerry Siegel e John Shuster, due ragazzi che erano cresciuti a Long Island. Ho avuto l'opportunità di conoscerli quando abbiamo girato il primo film e si sono accorti che il loro personaggio circolava dal 1968. I fumetti di Superman venivano spediti ai soldati durante la Seconda Guerra Mondiale. È un pezzo importante della cultura pop americana. Riguarda la speranza, il significato dell'amicizia, la leadership, la scoperta di sé. E tutte queste cose sono importanti per qualsiasi generazione. E sono felice che questo personaggio sia sopravvissuto alla prova del tempo. E sarà sempre reinventato per ogni generazione. Will always be reinvented for each generation. When all the world was very young, mountain magic heavy hung. the supermen would walk in file, guardians of a loveless isle, and gloomy-browed with super fear, their endless tragic lives could give no sigh in solemn perverse serenity. Wondrous beings chained to life. Strange games they would play then. No death for the perfect men. Life rolls into one for them. So softly a super god cries. Il suo ultimo intervento pubblico è all'Istituto di Riabilitazione di Chicago e questo intervento chiude, ahimè, anche la seconda vita di Christopher Reeve, che muore il 10 ottobre del 2004. Sono passati 9 anni da quella terribile maledetta caduta da cavallo. Lui lascia la moglie Dana, che lo seguirà solo un anno dopo. Lascia il loro figlio William di 13 anni e i 2 figli più grandi che aveva avuto dalla prima moglie. 9 anni dopo la scomparsa di Christopher parla il figlio minore Matthew, che sembra la sua copia esatta. Davanti a una giornalista fa emergere un aspetto del carattere di suo padre che forse non tutti conoscevano. Era divertentissimo e aveva uno spirito molto pungente. Non credo che la gente sappia questo di lui. Ha mantenuto sempre il suo senso dell'umorismo anche dopo l'infortunio. È sempre stato un tipo che amava divertirsi. Eh sì, la grande forza di Christopher Reeve è stata proprio quella, saper reagire, sapersi creare intanto una missione, quella di risollevare le tristi sorti del sistema sanitario americano, ma anche quella di risollevare se stesso con il sorriso. Forse rimarrà un eroe per la gente più per questo che non per l'eroe che ha interpretato sul grande schermo, cioè Superman. Insomma, di vite ne ha vissute almeno 2. E le persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, hanno volato in alto, fare cose che hanno lasciato il segno, sono tante. Noi cerchiamo di raccontarvele, di raccontarvi chi ha avuto cadute e risalite ed è riuscito ancora una volta a emergere. E ognuno di noi nella sua vita può farlo se vuole. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare i riflettori, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it oppure visitate la nostra pagina su radio24.it oppure venite a trovarmi sui miei social, a trovarci sui nostri social Facebook e Twitter. Insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Del Rosso.